Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Blagane zore, Balkan Rock, Bude verista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop cultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Balkan Rock, apriamo la puntata con Josip Broz Tito. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Josip Broz, non Josif, non continuare la chiamarlo Josef. Allora, per me è Josef. Vabbè, per te è Josef, per tutto il resto del mondo è Josip. Va bene, perché Josip Broz che parla di unità e fratellanza? Perché abbiamo appena trascorso le festività, 25 aprile, la festa di liberazione, il 1 maggio, la festa dei lavoratori. Andremo a vedere come si festeggiava, cosa si faceva durante queste festività nella ex Jugoslavia. Benissimo, allora diamo il benvenuto anche questa sera ai nostri radioascoltatori. Ricordiamo che possono contattarci nel nostro gruppo Facebook Balkan Rock at My Radio oppure il nostro account Twitter Balkan Rock _. Ma stasera non in diretta, perché non siamo in diretta, è una puntata registrata, quindi purtroppo non c'è la possibilità di interagire direttamente. Accidenti, hai svelato il mio piccolo segreto. Stavo facendo di tutto per bisogna dirlo, scusa. Il segreto, sennò sembra che siamo maleducati, non rispondiamo se si fa vivo qualcuno. Quindi festa di liberazione, 1 maggio, festa della Repubblica, queste grandi, cioè festività di Stato, quelle comandate. Ma vogliamo ricordare oggi anche la morte di Josip Broz Tito con la P, Josip. Cadeva oggi? Proprio oggi che stiamo registrando, il 4 maggio, quindi 2 giorni fa rispetto a quando state ascoltando la trasmissione, quindi proprio il 4 maggio del 1980? 80, esatto, 1980. Va bene, quindi... Quindi maggio è un mese ricco di cose importanti, c'era anche il compleanno di Tito, oltre che la sua morte, è successo tutto a maggio. Esatto, c'era anche il compleanno di Tito, che però veniva festeggiato qualche giorno dopo, perché fu istituita questa festa della gioventù. Vogliamo iniziare subito a parlare della festa della gioventù o partiamo prima con un brano? Guarda, fai quello che vuoi, perché sennò... Sì, dai, parliamo e iniziamo, se no facciamo a spizzichi e bonconi. Allora, Dan Ladostin, innanzitutto, si teneva quindi il 25 maggio dal 1945, quando fu istituito subito dopo la guerra, fino al 1987. Quindi questa festività... Secondo... Quindi ben 7 anni dopo la morte di Tito. Cosa, 7 anni dopo? Sì, al 1980. Protratta, sì, quei 7 anni, sì, dopo la sua morte, poi è andata in disuso. Quindi questa festività, secondo l'interpretazione ufficiale di allora, come si deduce al nome, Dan Ladost, il giorno della gioventù, era il giorno in cui i giovani jugoslavi dovevano dimostrare il proprio ottimismo e la propria forza necessari per la costruzione del socialismo. Quindi si tratta di uno dei tanti culti tipici delle religioni laiche del blocco socialista, o in questo caso di un paese non allineato. Lo stesso giorno, quindi, come dicevi prima, si festeggiava anche il compleanno di Tito, che in realtà cadeva qualche giorno prima, il 19 maggio. Quindi era un toro Tito. Questo lo sai tu, io non sono molto afferrato in astrologia. Era un toro, era toro, non sappiamo a che ora è nato, se no faremo una bella carta astrale del compagno Tito. Magari e scopriremo un sacco di cose. Qualcuno l'avrà già fatto. Quindi a questa festività si aggiungeva anche il culto della personalità, chiaramente, che in qualche modo tutt'oggi sopravvive. L'abbiamo visto l'anno scorso, il 25 maggio dell'anno scorso a Belgrado. Ebbene sì, io davanti al museo. Io e il compagno Giorgio vi c'eravamo presenti. Abbiamo festeggiato insieme il compleanno di Tito, appunto nel giorno del Damladosti, che appunto tradotto significa giorno della gioventù. In realtà di gioventù ce n'era ben poca, perché c'erano tanti vecchiettini nostalgici. Sì, è una manciata di giovani. Sì, è una cosa un po' strana. Quindi la festa in cosa consisteva ai tempi? Consisteva in una serie di eventi musicali, sportivi soprattutto, ma anche teatrali, ripresi poi dalla TV di Stato, che culminavano con cosiddetti slettovi. Che cos'è uno slet? Cos'è uno slet? È una performance di ginnastica artistica, di danza, in uniforme, fatta con centinaia se non migliaia di comparse. E quindi ci sono tutte queste coreografie imponenti che formano dei grandi cerchi, altre figure, oppure anche addirittura delle scritte tipo esatto. Tito e Nash, Mismo Titovi. Sì, si facevano anche queste cose. Penso che prendevano spunto dai cinesi e dai nordcoreani, sì, che sono esperti in queste cose. Sono cose molto al di là dei connotati ideologici, sono molto, molto belle da vedere. È molto difficili da realizzare, richiedono mesi e mesi di preparativi, coordinare tutta questa gente non è facile. Peraltro in questa occasione ricordiamo di andare a guardare proprio su YouTube uno di questi video molto molto divertenti, dove ci sono delle bimbe coreane che cantano in serbo croato una canzone per Tito, ovviamente con la loro R moscia, più che moscia, insomma la R caratteristica, sì, delle lingue asiatiche. Sono video molto molto divertenti, fa ridere, sì, fa tenerezza anche. Sì, non lo so, come chiave di ricerca Tito 25 maggio Nord Corea, magari vi salta fuori, sì, o con in inglese coreanche, coreane. L'altro momento clou, ma magari di questo parliamo dopo, era la consegna della cosiddetta staffetta Mladosti, la staffetta della gioventù, che era una specie di scettro che doveva essere consegnato al maresciallo dopo che era stato portato attraverso tutte le repubbliche della federazione da giovani maratonetti. Ma questo lo andiamo a vedere dopo, di che cosa si trattava. Cosa andiamo a sentire? Andiamo a sentire i Borghesia, un gruppo. No, non andiamo a sentire Borghesia, scusate, no, abbiamo ho visto prima male un altro nella pezzo. Playlist, sono un po' orbo. Abbiamo Igne, un gruppo electropop, quindi continuiamo sulla scia della trasmissione precedente. Tra l'altro vorrei fare del maniavantismo spinto, perché vorrei dire a tutti quanti che queste canzoni provengono tutte dall'hard disk di Dusko, poiché il mio sta subendo dei gravi problemi, adesso è ancora in prognosi riservata, per cui ecco, prendetevela soltanto con lui. Stai prendendo le distanze. Sto dai, prendendo le Igne, distanze. Sono carini con questo brano intitolato Danas. Oggi buon ascolto. benissimo. Allora, questi sono gli Igne con Danas. Tra l'altro, alcuni nostri radioascoltatori si sono lamentati che vogliono il ritorno del turbo folk. Però, insomma, noi dobbiamo accontentare un po' tutti i radioascoltatori. Questo dove l'hai letto? mi sfugge chi si è lamentato e dove? No, chi non si può dire. Si dice il peccato, ma non il peccatore. Va bene, ma sul nostro gruppo. Sul nostro gruppo, sì, sul nostro gruppo di Balkan Rock. Non ti credo. No, credimi, è andata esattamente così. Allora, questi erano appunto Igne con Danas. Continuiamo a parlare di Dan Mladost, il giorno della gioventù, ma soprattutto di Staffetta Mladost. Sì, la staffetta. Eravamo rimasti alla staffetta, questo scettro. Che cos'era la staffetta? Appunto una specie di bastone, uno scettro con sopra incastonata la stella rossa e le sei fiamme che dovevano rappresentare le sei repubbliche dell'ex Jugoslavia. Nella prima staffetta di gioventù hanno partecipato 12.500 giovani, quindi stiamo parlando dell'immediato dopoguerra, che hanno percorso ben 9.000 chilometri, consegnando a Tito i primi 9 scettri fetticcio e il cosiddetto libro blu, con 15.000 firme della gioventù di Shumadia. Le prime staffette sono state consegnate a Zagabria, mentre negli anni successivi Tito le riceveva personalmente davanti al Palazzo Bianco di Belgrado, ovviamente dopo una grande festa di accoglienza che si teneva in piazza della Repubblica. Ma il Palazzo Bianco di Belgrado era a Kučatsveća o comunque lì vicino nella zona di Dedinje? Penso di sì. Penso che si riferisca a quello, ma non sono sicuro. A quell'altro dove c'era il cinema. Chissà, dovremmo verificare. Bisognerebbe verificare. Le staffette di questo periodo, del primo periodo, quindi erano le più varie ed originali. Perché? Perché gli autori erano sempre gente comune e spesso e volentieri anonima, non erano cose costruite ad arte, ma veniva delegato questo compito ai ragazzi, ai giovani pionieri, no? Si chiamavano, agli operai, a giovani contadini, soldati, insomma, che si offrivano volontari. C'erano dei concorsi, adesso non mi ricordo. Erano fatte di legno, di metallo, mentre in cima, come dicevo prima, c'era la stella rossa e le sei fiamme fatte di plastica. Quindi questo scettro passava di mano in mano attraverso tutto il paese, simboleggiando l'unità e la fratellanza. Veniva portata persino via mare dai sub. Sì, c'erano dei sub che portavano la staffetta. Questa non la sapevo, attenzione. Sì, facevano queste pazzie. Oppure in cima alle montagne, addirittura sceglievano percorsi più lunghi possibile, no? Pogorama e Shumama, esatto, come i partigiani. Quindi c'erano anche degli alpinisti che le portavano, a volte persino i paracadutisti che si gettavano giù dall'aereo con la staffetta in mano. E poi ultima cosa, last but not last, le staffette contenevano dei messaggi al proprio interno in cui si parlava delle A message in a bottle. A message in a staffet. Chissà se dice staffet. Non penso. Quindi c'erano questi messaggi dove si parlava delle conquiste di quell'anno, si distribuivano riconoscimenti ai vari soggetti particolarmente meritevoli. E poi più avanti avrebbero perso un po' questa loro originalità e sarebbero diventate un po' più standardizzate. In ogni caso, se passaste così per caso da Belgrado, potete trovare dentro il museo della Kučatsveća, quindi il museo della Casa dei Fiori, all'interno appunto dove riposa il maresciallo Tito, un museo e una collezione appunto di tutte le staffette. È interessante vedere anche proprio come sono cambiate nel corso degli anni. Esatto, ci sono appunto da quelle un po' artigianali contadinotte, no? Che si vede che è un lavoro molto grezzo, fino a quelle, le ultime staffette super futuristiche, che erano un po' futuriste, un po' moderniste o postmoderniste. Ci sono quelle un pochino più che richiamano l'iconografia sovietica e quelle che invece no, sono più esatto, semplici. Dipende dai periodi, dipende se erano fatte prima, dopo 48, prima o dopo il 54, che era l'anno della distensione dei rapporti tra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica. Sì, assolutamente da visitare il museo della Jugoslavia a Belgrado, a Dedinje, per chi ci va, molto interessante, propone un sacco di iniziative molto belle, molto interessanti. Non è un posto jugo nostalgico, sicuramente non nel senso stretto, un progetto serio. Poi c'è la parte più jugo nostalgica, che è quella dove ci sono le staffette, appunto, dove c'è la residenza di Tito. Sì, dove si può anche visitare la tomba. Sì, ci sono tutti i regali che ha ricevuto nel corso dei decenni dai vari capi di Stato, con questi pugnali elaboratissimi libici, piuttosto che altri oggetti strani dell'Africa, dei paesi africani. Benissimo, allora andiamo ad ascoltarci un altro pezzo prima di continuare appunto a parlare delle festività primaverili che coinvolgono quindi sia il movimento internazionale dei lavoratori con il primo maggio, sia invece la Jugoslavia più in senso stretto. Andiamo ad ascoltarci quindi i Borghesia con Tem One Resistance Remix. Questi erano i Borghesia, un gruppo sloveno elettronico, rock elettronico, attivo dall'82 all'89, poi si sarebbe riformato nei tardi anni 2000. Bene, finiamo di parlare del 25 maggio, del giorno della gioventù, del compleanno di Tito. La staffetta della gioventù continua a vivere anche dopo la morte di Josip Broz, si diceva prima, anche dopo il 1980, e diventa il simbolo di amore e fedeltà verso la sua opera. Quindi con la promessa dei jugoslavi che anche in futuro seguiranno le orme di Tito. La staffetta si consegna sotto il suo ritratto questa volta, perché prima veniva consegnata direttamente a lui e dopo sotto il suo ritratto. E la riceveva il presidente della Lega della Gioventù Socialista allo stadio della JNA dell'esercito jugoslavo a Belgrado. Il clima nella società però stava rapidamente cambiando negli anni Ottanta, come i nostri ascoltatori sanno. Quindi i messaggi che venivano letti all'arrivo della staffetta cominciavano ad assumere toni un po' pessimistici. Iniziano anche le polemiche sul senso della manifestazione, mentre l'ultima volta la staffetta della gioventù si tiene nell'87, accompagnata da uno scandalo che coinvolgeva anche l'esercito e la polizia. Ma la parte più interessante è l'aspetto artistico iconografico che riguardava quella staffetta dell'87. Il manifesto proposto per l'evento in realtà era un'operazione di chiamiamolo subvertising culturale, ed era stata fatta dal collettivo artistico Novi Collectivism, legato al gruppo Laibach NSK, Neue Slowenische Kunst, che in realtà utilizza un vecchio pezzo della propaganda nazista, Terzo Reich, di Richard Klein, cioè si ispira a quella iconografia. Quindi la stessa staffetta non aveva le sembianze dello classico scettro, ma era una costruzione ridicola con quattro manici impossibile da portare correndo. Quindi era tutta una presa per il culo in realtà, cioè è stata sovvertita dall'interno come un culto ormai privo di significato. Guarda un po' quante perle che ci porti. Quindi tutti ai porci. Tutti i particolari cambiavano radicalmente rispetto a prima, cioè quindi era super modernista questa staffetta, era di plexiglass con 8 gocce di sangue, che ecco, c'era anche il sangue di mezzo, e che viste dalla prospettiva di oggi potevano essere una sorta un po' di profezia, insomma, rappresentavano il sangue che si sarebbe versato dopo. Quindi un po' sul filo dell'ambiguità il Novi Collectivism, quindi era un intervento forse un po' tardivo, considerando che nell'87 stavano già prendendo piede le correnti nazionaliste, le prime ondate di privatizzazioni. Quindi una critica feroce all'iconografia real socialista in quel momento, oggi, cioè con senno di poi, potrebbe apparire un po' tardiva, no? Assolutamente sì. Tuttavia è sorprendente come riuscivano a determinare nelle scelte così ad alto livello, non solo in quella occasione, intendo NSK, no? Neue Slowenische Kunst. In seguito attaccheranno anche l'ideologia neonazionalista, ecco, bisogna dirlo. È memorabile il concerto dei Laibach allo stadio di Belgrado nel 90, dove fecero un discorso delirante improntato sull'apologia al sangue e al suolo, che sono due elementi fondanti dell'ideologia nazifascista, accostando appunto nazionalismo serbo al nazismo tedesco, con pesanti riferimenti alla seconda guerra mondiale, facendo leva sul fatto che proprio i serbi, che erano tra le principali vittime del campo di concentramento di Jasenovac, stavano avendo dei rigurgiti di quel tipo. Ho capito, questo è sempre i Laibach, quindi. Sì, Laibach e NSK che lavoravano insieme, insomma, il gruppo musicale e il collettivo artistico. Bene, molto interessante. Avevo sentito di questo concerto qua dei Laibach, ma non sapevo tutta la storia, appunto, che stava dietro. Benissimo, allora andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Andiamo ad ascoltare i Bielodugme con Drugovi i Drugarice, ovvero Compagne e Compagni. Ja sam toga i budna. Ne prinika dođu devet. gioincine, svuota le gioincine. Ali slazi ma do deset, già sam čovjek strogi pek. Ne brini u pet do deset i već tu, uspirio se od večera si na fiksu. Questi erano i Bielodugme con Drugovi i Drugarice, compagni e compagni. Un po' hard rock. Ma bellissimo il testo. Quasi heavy metal. U početku bi nebo i zemlja, i tama nad bezdanom, neka bude svjetlo, i bi svjetlo. Un inizio biblico. Un inizio biblico, puoi tradurre se vuoi, prego. Vabbè, all'inizio ci fu il cielo, la terra e il buio sul bezdan. Il buio sul crepuscolo. E che sia la luce e che... la luce fu. Esatto. Si vede che non hai mai letto la Bibbia, eh? Si dice no, in principio. In principio, vabbè. Compagno Djordjevic. Vabbè, ma in realtà non parla di temi biblici, poi parla di tutt'altro. No, beh, questo è l'inizio della... È una citazione della Bibbia. Abbiamo capito, non ho capito che pro. Va bene, comunque non siamo qui per parlare della Bibbia, ma per parlare delle festività comandate dell'ex Jugoslavia. Benissimo, allora siccome abbiamo così deciso anche un po' di accennare qualcosa riguardo al primo maggio. Il primo maggio è una festa internazionale dei lavoratori, non è una festa jugoslava, non è una festa soltanto italiana, è una festa internazionale. Allora abbiamo pensato di raccontarvi un po' di storie legate al mondo del lavoro. Tra l'altro non tutti sanno che il primo maggio è anche importante in Jugoslavia, perché il primo maggio del 1920 a Pula ci fu una grande manifestazione in cui proprio per l'avvento, tempo in cui il regime fascista stava cominciando a prendere piede in Italia, perché nel 20 Pola era ancora Italia, appunto ci fu questa grande manifestazione in cui persero la vita 7 operai e 126 di questi furono gravemente feriti, per cui in tutta l'Istria è una festività che è ancora ricordata proprio per questo. Viene ancora commemorato questo fatto qua? Non viene commemorato questo fatto qua in particolare, ma comunque viene ricordato come giornata appunto importante proprio per gli operai di Pola e dell'Istria intera, appunto, che sì, poi è il periodo di colonizzazione fascista del dell'Istria. Dell'Istria, esattamente, per cui era anche un periodo in cui stavano iniziando a esserci tantissime manifestazioni operaie e l'organizzazione di alcuni partiti e sindacati proprio in Istria. Tutto questo è accaduto in Piazza Sergio, a Pola. Ci sei mai stato a Pola? Sai, no, dove è Piazza Sergio? Purtroppo no, mi piacerebbe. Benissimo, quindi questo appunto accadeva nel Krvavi Provimaj 1920 Godine Upuli, cioè il primo maggio sanguinario, così è stato ribattezzato. Ma oggi in Croazia, insomma, come un po' in tutta Europa e in gran parte del mondo, c'è una preoccupazione crescente per quanto riguarda la disoccupazione, in particolare è proprio l'esodo dei medici in questo caso a preoccupare. Infatti dall'ingresso della Croazia nell'Unione Europea il 1 luglio scorso sono poco più di 400 i medici che hanno richiesto la documentazione per lasciare il paese in cerca di un posto meglio pagato in altri paesi dell'Unione Europea, soprattutto la Germania. Questa è una notizia che appunto rende nota l'ordine dei medici croati, precisando che non si sa ancora quanti di questi abbiano realmente già lasciato la Croazia. I dati sono molto preoccupanti dato che il paese da anni registra un deficit del personale medico, il personale medico in particolare specializzato. In alcune regioni rurali è a volte quasi impossibile trovare un medico di famiglia, anche se il posto è garantito e lo stipendio ben al di sopra della media nazionale. Dovranno rivolgersi ai veterinari? Probabilmente sì. In totale in Croazia ci sono circa 16.000 medici, 2,5 per 1.000 abitanti, che sono pochini, cifra non molto al di sotto della media europea, che però rischia di peggiorare. Infatti il 60% dei medici che si apprestano a lasciare la Croazia sono relativamente giovani, cioè appena specializzati sotto i 40 anni di età. Quindi questa è la preoccupazione dei medici, diciamo che un po' tutte le classi di lavoratori. Tutto il lavoro specializzato che migra, esattamente come in Italia. Infatti. Bene, andiamo a ascoltarci un altro pezzo, appunto, prima di tornare a parlare di primo maggio e di lavoratori, un pezzo che si intitola Sanyas di Igra Staklenich Perli. Thank you. erano gli Igra, Saklenich Perli con Sagnash. Sì, un gruppo prog rock, space rock, che abbiamo sentito durante qualche puntata fa dedicata al, appunto, al progressive rock degli anni 70. Benissimo, allora torniamo a parlare di lavoratori. Da un interessante articolo di Samuel Bregolin su Osservatorio Balcani andiamo a parlarvi di una delle storie più così interessanti proprio sui lavoratori. Ho letto questo articolo e mi è interessato particolarmente, appunto, per quanto riguarda il primo maggio. Tutti sanno della fortezza di Petrovaradin a Novi Sad, o meglio nelle vicinanze di Novi Sad, perché si trova proprio a Petrovaradin, è tra i luoghi più visitati dai turisti che vanno in Serbia, e tutti conoscono l'orologio in cima alla fortezza. In pochi però conoscono l'anziano fabbro che quotidianamente si prende cura dell'antico meccanismo a pendolo costruito dai maestri alsaziani. Ma i maestri alsaziani sono quelli degli alsaziani, quelli che si mangiano? Ci sono anche quelli. Alsazia è famosa per le salsicce, per le birre e a quanto pare per gli orologiai. E non solo, anche per alsaziani, sì, i bastoncini salati. Sì. Che fame. Va bene, quindi sulla fortezza di Petrovaradin salgono ogni giorno decine di turisti che fotografano da lì, appunto, il panorama della città e dei ponti sul Danubio. Immancabile è lo scatto con la torretta dell'orologio, una torre di alcuni metri con intonaci rinnovati da poco. È uno dei simboli di Novi Sad, insomma, sì. Troverete sempre un sacco di cartoline con appunto la torre dell'orologio stilizzata. Infatti, un grande quadrante nero con numeri romani e una banderuola dorata sul tetto per indicare la direzione dei venti. Alla base della torre la piccola porta di ferro, sempre chiusa a chiave. L'orologiaio, che il comune di Novi Sad e l'ufficio del turismo cittadino propongono come immancabile visita da fare assieme alla fortezza di Petrovaradin e che capeggia come immagine di copertina su molte brochure turistiche, ha un'importanza particolare per la città. Come testimonia l'editto dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa del 1748, Novi Sad divenne una libera città imperiale in quello stesso anno con una donazione di 80.000 fiorini d'oro da parte di alcuni cittadini serbi. Assieme al diritto di riscossione delle tasse, la nuova nata municipalità di Novi Sad ottenne anche l'orologio di Petrovaradin, costruito con una parte della somma donata e i cui lavori vennero affidati a un gruppo di maestri alsaziani. Fu per molti decenni il solo orologio di Novi Sad con le sue lancette d'oro, al contrario di come si è soliti vedere, segnano rispettivamente la lunga alle ore e la piccola ai minuti. Questo lo sapevi, Dule? No. Ecco, vedi? Ma hai vissuto, cosa c'entra con il primo maggio? Ecco, mi fai sempre subito le domande. Perché è importante la storia di questo orologiaio, di cui ancora non ho detto il nome, ma abbi pazienza e abbi fede. Vediamo. Dunque, le lancette sono state ricoperte di vernice bianca l'anno scorso durante l'ultimo restauro dell'orologio, e in città si vocifera che questo periodo di crisi economica la scelta sia stata fatta per nascondere la loro anima in oro ai malintenzionati. Chissà. I recenti lavori di restauro sono l'unica prova tangibile dell'attenzione delle istituzioni per questo monumento cittadino. Era l'88 quando l'orologio cadde in panne. Il meccanismo a pendolo che oscillando faceva muovere le lancette ebbe un guasto e l'amministrazione socialista di allora non ebbe il tempo o i mezzi per provvedere. L'unico, e qui arriva il cuore della storia, l'unico che si interessò all'orologio fu Lukács Lajos, un fabbro residente in città e all'epoca responsabile locale dell'Istituto Provinciale per la Protezione dei Monumenti Culturali. Dice Lajos: scrissi una lettera al comune ma non ebbi mai alcuna risposta. Conoscevo chi possedeva le chiavi e andai a prenderle, poi mi occupai personalmente di riparare il guasto. Da allora ricarico l'orologio quotidianamente. Ancora oggi Lajos è il solo a possedere il mazzo di chiavi che apre la porta di ferro alla base della torretta, al cui interno si apre uno spazio stretto, per la maggior parte occupato dai bilancieri. Il pendolo in ferro arrugginito ondeggia ritmico, rasente alla parete di fondo. Il suo rumore cadenzato riecheggia sulle pesanti mura di mattoni. Su di esso sono dipinte la data di costruzione e le successive tarature del moto. Sulla sinistra un'angusta scala in legno sale sulla mezzanina di legno. È qui che si trova il meccanismo vero e proprio dell'orologio, un insieme di ruote dentate, ingranaggi e pullegge che attraverso lunghe leve di ferro conducono il moto rotatorio delle lancette esterne. Il meccanismo è dipinto di vernice rossa, mezzo coperto di polvere, e in un angolo si nota ancora lo stemma consumato dal tempo dei maestri alsaziani che lo costruirono. Si tratta quindi di un classico orologio con meccanismo pendolo, un peso composto da tre pesanti palle di ferro che, legate a una catena, tirano verso il basso. L'energia potenziale del peso si trasmette agli ingranaggi che lo moltiplicano e lo scaricano sul pendolo oscillante. Un indicatore misura quante volte lo scappamento ha ruotato e quindi anche quanto tempo è passato. Quindi insomma una roba davvero bello, interessante, davvero bello. Sì, questo tra l'altro dell'orologia è un mestiere un po' dimenticato, però non ho ancora capito cosa c'entra col primo maggio. Beh, ma Dule, ma tu hai una capacità proprio di collegamento di informazioni pari a un bambino mongolo di 4 anni e mezzo. Allora c'entra, perché questo è la storia di un lavoratore, la storia comune di un lavoratore. Vabbè, un lavoratore, insomma, cioè categoria piuttosto di nicchia, che non è che sia coinvolta dalle lotte operaie o da una qualche rivendicazione. Su. Sentiamoci. Beh, io non volevo parlare né di rivendicazione né di lotte operaie, volevo parlare di lavoratori comuni, come il signor Lajos. Decisamente fuori dal comune, signor Lajos, come lavoratore, comunque tanto è di cappello che si è sbattuto a tenere in ordine e funzionante la bellissima torre di Novi Sad. Ci torniamo al tema del primo maggio e ci andiamo a sentire Darko Rundek, un noto cantautore croato, tra l'altro di sinistra, con la sua canzone del suo primo album del 96 Apocalypso, Strike Železničara, lo sciopero dei ferrovieri. Sanjanja kroz tunele Čar zna, raste tlak u mašinama. zeo brzoga zraka I tjestenja nje odubljena Nek se podigne stisnuta šaka Nek nas povede u bolje dane Sve neka nas da Radi sam sluga ja Neću na koljena nikad od sada Darko Rundek, Strike Železničara. Continuiamo a parlare delle festività della ex Jugoslavia. E dopo il 25 maggio, appunto il giorno della gioventù, e il primo maggio, il giorno dei lavoratori, parliamo del giorno della Repubblica, il 29 novembre. Il giorno della Repubblica era uno appunto delle festività della Jugoslavia socialista. Si tratta dell'anniversario del secondo plenum dell'Avnoj. Antifascistico vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije, cioè il Consiglio antifascista di liberazione popolare, che si è tenuto a Jajce in Bosnia il 29 novembre del 1943, in mezzo alla guerra proprio, durante il quale i rappresentanti del movimento di resistenza partigiano hanno proclamato la nascita della Federazione Socialista e le sue basi costituzionali. E con la disgregazione della Jugoslavia viene abolita questa festività, ma formalmente cessa di essere festeggiata nella mini Jugoslavia, quella composta dalla Serbia e Montenegro, soltanto nel 2002, dove dal 91 veniva considerato come il giorno della Repubblica soltanto come passaggio dalla monarchia alla Repubblica, omettendo tutto il resto, la resistenza, il socialismo, la federazione, l'uguaglianza tra i popoli, eccetera. Peraltro, appunto, per quanto riguarda appunto questo passaggio cruciale, no, dalla monarchia alla Repubblica, non tutti sanno che le autorità serbe recentemente hanno riabilitato la regina Maria Karađorđević di Jugoslavia, dichiarando nullo e non valido un decreto del 1947 con il quale le autorità comuniste la privarono di cittadinanza, del diritto di voto e delle sue proprietà. Maria era madre di Petar Drugi Karađorđević, cioè Pietro II, ultimo re di Jugoslavia. Nata in Germania nel 1900, educata in Romania e in Inghilterra, si distinse per la sua opzione umanitaria e benefica a favore, tra gli altri, dei bambini rimasti orfani e delle vedove della Prima Guerra Mondiale. Poi si stabilì a Londra dopo l'occupazione nazista della Jugoslavia e morì in povertà nel 1961, appunto, nella sua casa londinese, sepolta a Windsor, vicino alla regina Vittoria, sua bisnonna. I suoi resti furono riportati poi in Serbia lo scorso anno e sepolti nel mausoleo della famiglia reale a Oplenac, insieme a quelli del figlio Petar Drugi, Pietro II, e degli altri membri della famiglia reale dei Karađorđević. Ecco, a proposito della monarchia e della Repubblica, dopo il 2007 e l'indipendenza del Montenegro, in Serbia la festa della Repubblica diventerà il 15 febbraio, ovvero l'anniversario della prima sollevazione contro l'impero ottomano del 1804 e del cosiddetto Sretenjski Ustav del 1835, che è una sorta di proto-costituzione in cui però Serbia continuava ad essere una monarchia dipendente, cioè sia dai turchi che dai russi. Quindi direi che con questo fanno un bel passo indietro. Il giorno della Repubblica era anche il giorno del giuramento dei piccoli pionieri, in cui ricevevano il fazzoletto rosso e il berretto blu con la stella rossa. Questo lo sapevi? Certo che sì. Certo, ecco, che sì. Volevo solo ricordarlo, quindi in prima, un rituale che si faceva in prima elementare, prima di questa festività. Ma il giuramento tu te lo ricordi? Diceva così: danas kada postajem pionir, cioè oggi che divento pioniere, dajem časnu pionirsku riječ, do la mia parola d'onore, di da, pioniere, da ću marljivo učiti raditi, che studierò e lavorerò in modo disciplinato, diligente, sì. Da ću poštovati roditelje i starije, che rispetterò i miei genitori e i più anziani, e che sarò un amico fedele e sincero. E non può. Dovevamo sì, fare il contrario. Dovevamo fare il contrario. Sì, ce l'hai tu il testo non originale. Ho schiacciato il bottoncino di serbo-croato. Scusami, ma non il mio funzioni processore... come traduttore. Non no, funzioni. Il mio processore è un po' lento. E dicevamo che dove siamo rimasti? Veranisken drug. Koji drži datu riječ? Che tiene la parola data. Bene. Poi, da ću voljeti našu domovinu, samoupravnu, socialističku, federativnu Repubbliku Jugoslaviju. Camerò la nostra patria autogestita federativa di Jugoslavia. Che da ću razvijati bratstvo, jedinstvo e idee za koje se borio drug Tito. Che svilupperò la unità e fratellanza, cioè le idee per cui si è battuto il compagno Tito. Da ću cijeniti sve ljude svijeta koji žele slobodu i mir. Che rispetterò, che stimerò tutte le persone del mondo che vogliono la pace e la libertà. E la libertà, esattamente, benissimo. Abbiamo anche fatto oggi siamo abbiamo fatto il giuramento tutti quanti. Io ne ho fatti un sacco di giuramenti, io scout una volta, scout per sempre, ragazzi. Ecco, è un po' come fare i pionieri. Infatti, infatti. Bello, bello il giuramento, quello degli scout è molto simile peraltro. Immagino. Perché comunque il movimento del pioniere sicuramente prende spunto, no, dal movimento scout. Beh, certo. Anche per quanto riguarda la divisa è molto simile, il fazzoletto legato al collo. Dici che è una cosa voluta? Non è una casualità? Non è assolutamente una casualità. Ma ne hai delle prove? Ma penso è così ovvio e palese che il movimento scout siano ispirati quelli del partito della Lega dei Comunisti Jugoslavi quando hanno ideato questa cosa. Beh, ma mica solo loro, insomma, anche in tantissime altre repubbliche negli altri ex socialisti. Sì, sì. Comunque quello del movimento scout non è adesso noi lo vediamo come movimento religioso perché viviamo in Italia, siamo l'egemonia cattolica. Esatto, sì. Ma comunque a livello mondiale è sempre stato un movimento giovanile. Sì, non... ma no, c'era uno scout anche nell'ex Jugoslavia. Bene, finisco di parlare del 29 novembre, il giorno della Repubblica. Si festeggiava per ben due giorni. Si sa che nell'ex Jugoslavia non si lavorava troppo. A me no, soprattutto in Montenegro. Soprattutto in Montenegro si lavorava. Due giorni di festa ed era un momento in cui le famiglie si riunivano quasi come se fosse il Natale. Quindi chi aveva i parenti in campagna andava da loro, si facevano le mangiate pantagrueliche e si seguivano i festeggiamenti in TV. Quindi per certi versi, secondo me, ricordava il giorno del ringraziamento americano, no? Con la famiglia al completo davanti al tacchino arrosto. Davvero? Cioè, ma sì, perché non aveva dei connotati, non gli davano troppi connotati ideologici, almeno dopo gli anni 60. Non la facevano troppo spessa, era proprio una festa molto easy. A differenza del primo maggio, dove magari c'erano, si davano più contenuti ideologici. Quindi chi aveva i parenti, come dicevo prima, andava verso le campagne, che il caso vuole che cade proprio l'ultima settimana di novembre, cioè durante il periodo di svignocoglie. Questa mamma parola mia, bruttissima. Cioè il periodo quando si sgozzano i maiali, cioè un rituale antico noto in tutta Europa temperata, cioè i giorni in cui si preparano i ciccioli, le salsicce, i prosciutti e appunto si sgozzano i maiali. Ma questo si fa anche in Italia del Nord, nella pianura padana, a fine novembre si sgozzano, purtroppamente, i maiali. Sì. Esatto, quindi a lei vai con le salsicce fresche. Quindi poi vabbè, alcuni anni furono organizzate anche le parate militari per far vedere un po' i muscoli e giustificare la vanteria che tra virgolette eravamo la quarta potenza militare in Europa dopo l'Unione Sovietica, la Francia e l'Inghilterra. Non so se era una cosa vera, però aveva una potenza notevole l'apparato militare jugoslavo. Cioè, se vuoi ti dico anche... Dimmi. Hai ben 52 secondi. 51? Mi bastano. 50? L'esercito popolare jugoslavo disponeva di 220.000 effettivi, potenzialmente 1,5 milioni di riservisti della difesa territoriale. Alla fine degli anni 80 aveva 2.000 carri armati, 2.000 corazzati da trasporto e combattimento, un centinaio di navi da guerra, 500 tra aerei e elicotteri, migliaia di cannoni di diverso calibro, alcuni lanciabatterie, lanciarazzi terra-terra con una gittata fino a 100 km. Quindi tutto questo bel arsenale hanno usato per ammazzarsi tra di loro dopo. Complimentoni, ragazzi. È servito per una nobile causa. Ma poi c'era anche Objekat 505, di cui si parla recentemente. Fai andare intanto del sottofondo Margita Jemrtva, che ci sta con queste tematiche macabre e militariste. Objekat 505 l'avrai letto recentemente. È uscito a galla questo aeroporto sotterraneo e bunker antiatomico a Zeljava, vicino a Klek, cioè nella provincia di Bihać in Bosnia. È un progetto assurdo, cioè un hangar da centinaia di metri di, anzi tre hangar da centinaia di metri di lunghezza, attrezzati con abitazione, centri di comando, sistemi logistici, costruito tra 56 e 68, è costato tipo 4 miliardi di dollari di allora, ecco perché la Jugoslavia era straindebitata, perché costruivano queste opere colossali. Ma sicuramente avevano dei finanziamenti degli americani, perché tutto sommato faceva comodo che la resistenza in quel caso, cioè nel caso di un'invasione sovietica, fosse efficace, ecco. Benissimo, allora in sottofondo state ascoltando Margita e Mrtva, Srbische Electronic, un pezzo di musica elettronica. Io ve l'avevo detto all'inizio della puntata che non dovete lamentarvi con me, perché mi dissocio completamente dalla scelta musicale, a parte per quanto riguarda l'ultimo pezzo che andremo ad ascoltarci in chiusura. Quindi adesso purtroppo dobbiamo salutarvi, dobbiamo darvi l'appuntamento al prossimo martedì. Non abbiamo... ci sentiamo Down Republic, No, dobbiamo assolutamente sentire il giorno della Repubblica dei Zabranio Push, piuttosto tronchiamo. Dovremmo, nel caso in cui tu me l'avessi inserito nella playlist, ma siccome non l'hai fatto, tesoro no, caro. No, non è possibile. Assolutamente sì. Per cui Dan Repubbliche lo pubblicheremo volentieri sì, come pezzo sul nostro blog, che ricordiamo, ecco, non lo ricordiamo mai, ma Balkan Rock. C'è già, dobbiamo metterlo, sì, dobbiamo metterlo sulla pagina di Facebook con la traduzione, che avevo diligentemente da bravo pioniere fatto. Bravo pioniere. Dicevo, balkanrock.noblogs.org è il nostro blog su cui potete seguirci. Poi ricordiamo anche il gruppo su Facebook, balkanrock@myradio. Benissimo, allora ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana con Bella Ciao dei Cudi Idioti. Dovigenia Svima. Dovigenia. Oh, bella ciao, bella ciao.